ed un pianto si susseguono questa giornata. E di tutto il passato cosa resta? La memoria di un fiore, una carezza, un muro sbracciato, roca e canzone, frammento d'altalena e una bambina, film di trecce e diafana la pelle. Poi la mia vita esplosa, figlia e figlia, gialla e smeralda, luce mia gioia, per non vivere quel credito di gioia, che spesso stringe il cuore ad una morsa. Gioco con le parole e le emozioni, forse importanti solo per me stesso. Annaspa la mia vena rattoppata, cercando pace in un moto nuoso di calze, affondo sotto nubi d'acqua azzurra. Se quella la tempesta è col sereno, e mentre soffia il vento di scirocco, riportando il ricordo di una prima, ringrazio di per quanto mi circonda. Il ghiaccio svanisce al primo sole, credo risorgerò, ne sono certo, forse per farmi fiore dietro di me, se potrò scegliere. Rimango donna e sarò madre ancora di me.